fenomenal. Dentro un film, muovi tutto mio. Oblio. Pixar, effetti speciali, Wizard. Sono dentro la leggenda di Jim Morrison, dentro un flash. Come se fossi stato anche Ganesh. Fantasma ha composta come se fossi Mozart, dentro una art che è una A. Scrivo A dal medallore quando mi chiede come va. Sono un artista come Peva del delirio, il mio è in festa. Fenomenal, dentro un film, movie tutto mio. Oblio. Pixar, effetti speciali, Wizard. Sono dentro la leggenda di Jim Morrison, dentro un flash. Come se fossi stato anche Ganesh. Delirio mio è in festa, sta come pensa che vada, il delirio mio è in festa.